L'invisibilità dell'ovvio. Secondo il modello prevalente, in base al quale la divisione in classi è il più importante principio dell'organizzazione, se le donne hanno una condizione sociale elevata, se ne deduce che quella degli uomini debba essere inferiore. Abbiamo già visto come le prove di una discendenza matrilineare, di una divinità femminile suprema e di sacerdotesse e regine con potere temporale siano considerate indicative di una società, tra virgolette, matriarcale, ma questa conclusione non è assolutamente confortata dalle testimonianze archeologiche. E il fatto che le donne a Creta avessero una condizione elevata non implica che quella degli uomini fosse paragonabile alla condizione femminile nei sistemi sociali a dominio maschile. Nella Creta minoica, il rapporto tra i sessi nel suo complesso, non solo le definizioni e le valutazioni dei ruoli di genere, ma anche gli atteggiamenti verso la sensualità e il sesso, era ovviamente molto diverso dal nostro. Per esempio, la foggia dei vestiti col seno scoperto delle donne e gli abiti da uomo succinti che evidenziavano i genitali rivelano uno schietto apprezzamento delle differenze sessuali e del piacere che queste rendono possibili. Da ciò che ora sappiamo, grazie alla moderna psicologia umanistica, questo vincolo del piacere deve aver consolidato un senso di reciprocità tra donne e uomini in quanto individui. Gli atteggiamenti più spontanei dei cretesi nei confronti del sesso devono aver avuto anche altre conseguenze, ugualmente difficili da percepire con il modello prevalente in cui il dogma religioso considera il sesso più peccaminoso della violenza. Come scrive la Hawkes, sembra che i cretesi abbiano ridotto e sublimato la loro aggressività grazie a una vita sessuale libera ed equilibrata. Insieme al loro entusiasmo per gli sport e per la danza, alla loro creatività e amore per la vita, questi atteggiamenti liberati verso il sesso sembra abbiano contribuito allo spirito generalmente armonioso e pacifico che dominava la vita a Creta. Come abbiamo visto, è questo tipo di spirito che distingue Creta dalle altre grandi civiltà del suo tempo. La cultura minoica è straordinaria per le differenze sostanziali del suo spirito rispetto a quello dei suoi contemporanei. Ma ecco l'eterno blocco, il punto in cui gli studiosi si scontrano con l'informazione che viene automaticamente esclusa dalla visione del mondo prevalente. Perché quando si tratta di collegare questa differenza sostanziale della Creta minoica al fatto che essa fu l'ultima società e quella più tecnologicamente avanzata in cui il dominio maschile non era la norma, la stragrande maggioranza degli studiosi si blocca di colpo o prende rapidamente un'altra direzione. Al massimo aggirano la difficoltà con una tattica elusiva. Possono notare che, diversamente da altre civiltà antiche e contemporanee, a Creta veniva data una priorità sociale a virtù femminili, tra virgolette, come la quiete, la sensibilità ai bisogni del prossimo, e possono anche rilevare che a Creta le donne occupavano alte posizioni sociali, economiche, politiche e religiose, ciò che non avviene in altre società, però lo fanno solo di sfuggita, senza enfasi, facendo così intendere al lettore, sensibile alla loro autorità, che si tratta di una faccenda secondaria o marginale. Esaminando la maggior parte della letteratura su Creta, viene da pensare continuamente alla curiosa nota che Charles Darwin appose all'origine dell'uomo. In un passo di questo classico della scienza sulle differenze razziali, Darwin ricordava che quando era in Egitto aveva pensato che i tratti di una statua del faraone Amenofis III fossero spiccatamente negroidi, ma dopo questa affermazione, seppure in una nota a piedi pagina, correggeva immediatamente ciò che aveva verificato coi suoi stessi occhi e che in seguito è stato ampiamente accettato: in Egitto vi furono faraoni neri. Sebbene egli stesso racconti che le sue osservazioni furono ulteriormente confermate da due persone che al momento si trovavano con lui, Darwin si sentì in dovere di citare due famose autorità in materia che nel loro libro Types of Mankind hanno descritto i tratti dei faraoni come squisitamente europei e hanno sostenuto che la statua in questione non era assolutamente un ibrido negro, tra virgolette. All'inizio del capitolo abbiamo notato incidenti simili relativi all'esistenza di donne faraone come Meriet Nit e Nit Hotep, ma mentre nell'egittologia questa sorta di autorevole cecità si manifesta sporadicamente, nella letteratura dotta su Creta Essa è onnipresente e ogni volta svia, rende invisibile o al più insignificante il messaggio straordinariamente chiaro dell'arte cretese. Molto tempo dopo Darwin, nonostante la scoperta di molte statue di prove visive molto più chiare dell'esistenza storica di regnanti neri, gli esperti, quasi tutti maschi bianchi naturalmente, continuavano a sostenere che non poteva esistere assolutamente un ibrido negro. Allo stesso modo, la straordinaria evidenza della differenza essenziale che distingue Creta dalle altre società viene negata o fraintesa dalla maggioranza degli studiosi. Il ruolo centrale che svolgevano le donne nella società cretese è talmente sorprendente che fin dalle prime fasi della scoperta della cultura minoica gli studiosi non hanno potuto ignorarlo del tutto. Come Darwin, comunque, si sono sentiti in dovere di adattare all'ideologia prevalente quanto osservavano con i propri occhi. Per esempio, quando ai primi del Novecento Sir Arthur Evans iniziò gli scavi sull'isola, si rese conto che i cretesi adoravano una divinità femminile. Vide anche che l'arte cretese ritraeva quelle che egli definì scene di confidenze femminili, ma commentando queste scene Evans si sentì in dovere di considerarle nient'altro che, sono parole sue, ciarle femminili su scandali della società. La posizione di Buchholz e di Karageorgis, da un lato, tende a essere la caricatura dell'atteggiamento stereotipato dei tedeschi verso le donne. Dall'altro, persino loro notano che nel Pantheon si rifletteva la preminenza femminile in ogni aspetto della vita e che anche in seguito la grande stima per il femminile è riscontrabile anche nella religione della più virile civiltà micenea. Solo una donna, Jaqueta Hawkes, definisce esplicitamente femminile la civiltà minoica, ma anche lei taglia corto ed evita di indagare sulle piene implicazioni di questa importante intuizione. Platon nota specificamente che il ruolo importante svolto dalla donna è riscontrabile ovunque. Scrive inoltre che senza dubbio le donne, o perlomeno l'influenza della sensibilità femminile, diedero un notevole contributo all'arte minoica. E aggiunge che il ruolo preponderante svolto dalle donne nella società è dimostrato dal fatto che esse prendevano attivamente parte a tutti gli aspetti della vita dei secondi palazzi. Ma dopo aver riconosciuto come caratteristica essenziale della cultura cretese la posizione elevata delle donne e la loro attiva partecipazione a ogni aspetto della vita, anche Platon si sente in dovere di aggiungere che ciò era forse dovuto all'assenza degli uomini a causa dei lunghi viaggi in mare. Questo in un'opera per altri versi straordinariamente buona, in cui nota specificamente che, sebbene sarebbe fuorviante descriverla, Creta, come un matriarcato, ci sono numerose testimonianze anche del successivo periodo ellenico, che la discendenza era per linea femminile. Dunque, ci rendiamo conto ancora una volta come sotto il modello prevalente il nostro passato reale e l'impulso iniziale della nostra evoluzione culturale possano essere visti solamente come attraverso un vetro opaco. Ma quando ci troviamo di fronte alla grande importanza di cosa questo passato prefigurava, ciò che noi, al nostro livello di sviluppo tecnologico e sociale, avremmo potuto e forse ancora possiamo essere, dobbiamo affrontare una domanda assillante. Che cosa ha causato il mutamento radicale di direzione culturale, la svolta che ci ha precipitato da un ordinamento sociale sostenuto dal calice a uno dominato dalla spada? Come e quando è successo? E questo cambiamento catastrofico cosa ci rivela del nostro passato e del nostro futuro? 4. Un cupo ordine, dal caos, dal calice alla spada. Ci hanno insegnato che la storia dell'uomo si svolge in un arco di tempo misurato in secoli, ma il periodo storico precedente, assai diverso, si misura in millenni. Con il Paleolitico torniamo indietro di oltre 30.000 anni. La rivoluzione agraria del Neolitico risale a 10.000 anni fa. Chtal-Hök fu fondata 8.500 anni fa e la civiltà di Creta cadde solo 3.200 anni fa. Durante questo ciclo di millenni, enormemente più lungo del periodo storico che calcoliamo sui nostri calendari a partire dalla nascita di Cristo, Nella maggior parte delle società dell'Europa e del Vicino Oriente si diede particolare importanza alle tecnologie che aiutavano la vita e ne miglioravano la qualità. Nel corso delle migliaia di anni del Neolitico si fecero grandi progressi nella produzione di cibo tramite la coltivazione e anche nella caccia, nella pesca e nell'addomesticamento degli animali. L'alloggio era migliorato grazie alle innovazioni della tecnica di costruzione, della manifattura dei tappeti, del mobilio, di altri articoli per la casa e persino, come a Chantal Hücke, della pianificazione urbanistica. L'abbigliamento aveva da tempo superato la fase di pelli e pellicce grazie all'invenzione della tessitura e del cucito. E una volta gettate le fondamenta materiali e spirituali per una civiltà più progredita, fiorirono anche le arti. La norma generale era probabilmente la discendenza matrilineare. Le donne più anziane, o quelle a capo dei clan, amministravano la produzione e la distribuzione dei prodotti della terra, che venivano considerati proprietà di tutti i membri del gruppo. Con la proprietà comune dei principali mezzi di produzione e la concezione del potere sociale come una responsabilità o un'amministrazione fiduciaria finalizzata al bene comune, si giunse a quella che sembra fosse un'organizzazione sociale sostanzialmente cooperativa. Uomini e donne, e a volte, come a Chantal Hücke, persino popoli con origini razziali differenti, lavoravano insieme per il bene comune. La maggiore forza fisica dell'uomo non era la base dell'oppressione sociale, della bellicosità organizzata o della concentrazione della proprietà privata nelle mani dei più forti, né giustificava la supremazia dei maschi sulle femmine o dei valori maschili, tra virgolette, su quelli femminili. Al contrario, l'ideologia prevalente era ginocentrica, incentrata sulla donna, e la divinità era rappresentata in forma femminile. Come abbiamo visto, veniva attribuito il massimo valore ai poteri di generazione, sostentamento e creazione, e non distruzione della natura, simboleggiati dal calice femminile, la sorgente della vita. Allo stesso tempo sembra che la funzione delle sacerdotesse e dei sacerdoti non fosse quella di servire e dare una sanzione religiosa a una brutale elite maschile, bensì di giovare a tutta la comunità, così come i capi dei clan amministravano le terre possedute e lavorate collettivamente. Ma poi arrivò il grande cambiamento, un cambiamento così grande da non poter essere paragonato a nessun altro evento dell'evoluzione culturale dell'umanità. Gli invasori periferici. Da principio fu come la proverbiale nube biblica, non più grande della mano di un uomo, attività di bande di nomadi, apparentemente insignificanti, che vagabondavano nelle zone periferiche meno desiderabili del nostro globo, alla ricerca di pascoli per le loro greggi. Apparentemente se ne restarono lì per millenni, nei territori più freddi e poveri, aspri, poco allettanti, ai confini della terra. Le prime grandi civiltà agricole invece si erano diffuse lungo i laghi e i fiumi delle fertili aree centrali. Per questo popoli di agricoltori, che si godevano il primo apice nella storia dell'evoluzione umana, pace e prosperità, dovevano sembrare una condizione beata e perenne dell'umanità. E i nomadi niente più che una novità di poco conto. Possiamo solo fare congetture su come queste bande di nomadi crebbero di numero in ferocia e nel corso di quanti anni, ma dal quinto millennio avanti Cristo, circa 7000 anni fa, si cominciarono a trovare testimonianze di quello che viene definito un modello di disgregamento delle antiche culture neolitiche del vicino Oriente. I resti archeologici, a partire da questa epoca, indicano chiari segni di pressione in molti territori. Ci sono tracce di invasioni, di catastrofi naturali, a volte di entrambe, che causano distruzione e disordini su larga scala. In molte zone scompaiono le antiche tradizioni della ceramica dipinta. Una devastazione dopo l'altra, si instaura poco a poco un periodo di regressione e stagnazione culturale. Alla fine, durante questo periodo di caos crescente, lo sviluppo della civiltà giunge ad un punto morto. Ci vorranno altri 2000 anni prima che le civiltà sumere ed egizia facciano la loro comparsa. E anche nell'antica Europa l'interruzione fisica e culturale delle società neolitiche che adoravano la dea sembra incominciare nel quinto millennio avanti Cristo, con quella che Maria Gimbutas chiama ondata Kurgan numero 1. Grazie al crescente numero di datazioni con radiocarbonio, oggi è possibile tracciare diverse ondate migratorie dei pastori delle steppe o popoli Kurgan che travolsero l'Europa preistorica, riferisce Maria Gimbutas. Queste incursioni ripetute e gli shock culturali e i mutamenti nella popolazione che ne derivarono si concentrarono in tre spinte principali. L'ondata numero 1, all'incirca nel 4300-4200 a.C., l'ondata numero 2, 3400-3200 a.C., 1000 anni dopo, l'ondata numero 3, 3000-2800 a.C. circa. I Kurgan appartenevano al ceppo linguistico che gli studiosi definiscono indoeuropeo o ariano, un tipo che in epoca moderna sarà idealizzato prima da Nietzsche e poi da Hitler come l'unica razza pura d'Europa. In realtà non erano autenticamente europei, poiché si riversarono in questo continente provenendo dal nord-est asiatico ed europeo. Ne erano autenticamente indiani, poiché in India viveva un altro popolo, i Dravidi, prima che gli invasori ariani li sottomettessero. Ma il termine indoeuropeo è rimasto. Esso indica una lunga serie di invasioni di popolazioni nomadi provenienti dal nord dell'Asia e dell'Europa. Erano governati da potenti sacerdoti e guerrieri, portavano con sé i propri dei della guerra e delle montagne e come ariani, in India, ittiti e mitanni, nella mezzaluna fertile, luvi in Anatolia, Kurgan, nell'Europa orientale, Achei e successivamente Dori in Grecia, essi imposero gradualmente le loro ideologie e i loro stili di vita sulle terre e i popoli che avevano conquistato. C'erano anche altri invasori nomadi. I più famosi sono quelli che chiamiamo ebrei, di stirpe semitica, che provenivano dai deserti del sud e invasero Canaan, poi chiamata Palestina dal nome dei Filistei, uno dei popoli che viveva nella regione. I precetti morali che associamo sia al giudaismo che al cristianesimo, e l'importanza che in molte chiese e sinagoghe moderne si dà alla pace, oggi oscurano il dato storico che in origine gli antichi semiti erano un popolo bellicoso, governato da una casta di sacerdoti e guerrieri, la tribù dei Leviti di Mosè, Aaron e Giosuè. Come gli indoeuropei, anch'essi portarono con sé un dio fiero e iroso della guerra e delle montagne, Geova o Yahweh, e progressivamente, come leggiamo nella Bibbia, anch'essi imposero gran parte della loro ideologia e del loro modo di vita ai popoli delle terre che avevano conquistato. Queste sorprendenti somiglianze tra indoeuropei e antichi ebrei hanno fatto nascere congetture su delle possibili origini comuni o quantomeno su alcuni elementi di diffusione culturale. Ma quello che ci interessa non è tanto la scoperta di possibili parentele o contatti culturali, bensì ciò che sembra accomunare con certezza questi popoli di luoghi ed epoche così diversi, la struttura dei loro sistemi sociali e ideologici. La caratteristica comune a tutti era un modello dominatore dell'organizzazione sociale, un sistema sociale in cui il dominio maschile, la violenza maschile e una struttura sociale generalmente gerarchica e autoritaria erano la norma. Un'altra caratteristica comune era che costoro, a differenza delle società che posero le basi della civiltà occidentale, non acquisivano la ricchezza materiale sviluppando tecnologie di produzione, bensì ricorrendo a tecnologie di distruzione sempre più efficienti, cioè rubando e violentando. Alla base del sistema degli invasori c'era l'attribuzione di un maggiore valore al potere che toglie la vita anziché a quello che la dà. Era il potere simboleggiato dalla spada maschile, che come mostrano le incisioni nelle prime caverne Kurgan, questi invasori indoeuropei letteralmente adoravano. Infatti, nella loro società di tipo dominatore, governata da dei e uomini e guerrieri, era questo il potere supremo. Con la comparsa sulla scena della preistoria di questi invasori, e non, come si dice talvolta, con la scoperta da parte dei maschi del proprio ruolo nella procreazione, la dea e le donne furono ridotte al ruolo di consorti dell'uomo o concubine. Gradualmente il dominio maschile, l'aggressività e l'asservimento delle donne e degli uomini più miti, effeminati, tra virgolette, divennero la norma. Il passo che segue di Maria Gimbutas riassume quanto fondamentalmente differenti fossero questi due sistemi sociali e quanto catastrofici furono i mutamenti delle regole imposti da questi isolati periferici ora divenuti invasori periferici. Scrive Maria Gimbutas: le culture degli antichi europei e dei Kurgan erano antitetiche. Gli antichi europei erano orticoltori, sedentari, propensi a vivere in grandi città ben progettate. L'assenza di fortificazioni e di armi dimostra la convivenza pacifica di questa civiltà ugualitaria, probabilmente matrilineare e matrilocale. Il sistema Kurgan era composto da unità di allevatori patrilineari, socialmente stratificate, che vivevano in piccoli villaggi o in accampamenti stagionali, mentre facevano pascolare i loro animali su vasti territori. Un'economia basata sull'agricoltura e una basata sull'allevamento e il pascolo produssero due ideologie contrastanti. Il sistema di credenze degli antichi europei si imperniò sul ciclo agricolo di nascita, morte e rigenerazione, incarnato nel principio femminile, la madre creatrice. L'ideologia Kurgan, come si evince dalla mitologia comparata indoeuropea, esaltava gli dei guerrieri del cielo fulgido e tonante, eroici e virili. Le armi non esistono nelle immagini degli antichi europei, mentre la daga e l'ascia da combattimento sono simboli dominanti dei Kurgan, che come tutti gli indoeuropei della storia glorificavano il potere letale della spada affilata. Guerra, schiavismo e sacrificio. Forse il dato più significativo è che nelle rappresentazioni di armi incise su roccia, stele e pietre, che cominciano ad apparire soltanto dopo le invasioni Kurgan, troviamo ciò che Maria Gimbutas descrive come le prime immagini che si conoscano di dei guerrieri indoeuropei. Alcune figure sono semi-antropomorfe, con teste e braccia, riferisce Maria Gimbutas a proposito di una serie di incisioni su roccia rinvenute nelle Alpi svizzere e italiane. Ma in gran parte si tratta di immagini astratte in cui il dio viene rappresentato esclusivamente tramite le sue armi, o mediante le armi insieme a una cintura, una collana, un pendente a doppia spirale, o all'animale divino, un cavallo o un cervo maschio. In molte composizioni compaiono frequentemente un sole o le ramificazioni delle corna nel posto dove dovrebbe esserci la testa del dio. In altre, le braccia del dio sono raffigurate come alabarde o asce dai lunghi manici. Una, tre, sette o nove daghe sono collocate al centro della composizione, di solito sopra o sotto la cintola. Ovviamente le armi rappresentavano i poteri e le funzioni del dio, scrive Maria Gimbutas, e venivano adorate come rappresentazioni del dio stesso. La sacralità dell'arma è ben evidenziata in tutte le religioni indoeuropee. Sappiamo da Erodoto che gli sciti facevano sacrifici alla loro daga sacra, Akhenakes. Non si conoscono precedenti incisioni o immagini di divinità con armi nella regione alpina del Neolitico. Questa glorificazione del potere letale della lama affilata si accompagnava a un modo di vita in cui sembra fosse normale l'uccisione sistematica di altri esseri umani, così come la distruzione e il saccheggio dei loro averi e l'asservimento e lo sfruttamento delle loro persone. A giudicare dalla testimonianza archeologica, la nascita dello schiavismo, il possesso di un uomo da parte di un altro, sembra essere strettamente collegata a queste invasioni armate. Per esempio, questi ritrovamenti indicano che in alcuni campi Kurgan gran parte della popolazione femminile non era Kurgan, bensì apparteneva alla popolazione neolitica dell'antica Europa. Questo rivela che i Kurgan massacravano la maggioranza di uomini e bambini del posto, ma risparmiavano alcune donne che prendevano con sé come concubine, mogli o schiave. La prova che questa fosse una pratica comune si trova nei racconti dell'Antico Testamento, quando, molti millenni più tardi, le tribù nomadi degli ebrei invasero Canaan. Per esempio, in Numeri 31, 32 e 35 leggiamo che nel bottino di guerra preso dagli invasori nella loro battaglia contro i Madianiti c'erano, in quest'ordine, pecore, bestiame, asini e 32.000 ragazze che non avevano avuto rapporti con uomini, ossia vergini. La violenta degradazione delle donne e quindi anche dei loro bambini, maschi e femmine, a una condizione di mero possesso maschile è documentata anche dalle pratiche di sepoltura Kurgan. Come rileva Maria Gimbutas, una delle prime prove che si conoscano di kurganizzazione è un certo numero di tombe che risalgono a poco prima del quarto millennio avanti Cristo, in altre parole, poco dopo che la prima ondata di invasori Kurgan travolgesse l'Europa. Si tratta delle tombe dei capi, caratteristiche della gerarchizzazione indoeuropea di tipo dominatore, che rivelano un cambiamento radicale nell'organizzazione sociale, con una elite di uomini forti al vertice. In queste tombe, che Maria Gimbutas definisce un chiaro fenomeno culturale alieno, è evidente anche un notevole cambiamento nelle pratiche e nei riti di sepoltura. A differenza delle tombe degli antichi europei, dove si trovano pochi indizi di disuguaglianza sociale, in quelle Kurgan ci sono grosse differenze nelle dimensioni delle tombe e in quelli che gli archeologi chiamano doni funerari, ciò che è contenuto nelle tombe, a parte il defunto. Per la prima volta in tombe europee, accanto a uno scheletro maschile eccezionalmente alto e con ossa grosse, si trovano scheletri di donne sacrificate, mogli, concubine o schiave del defunto. Questa pratica, che Maria Gimbutas definisce sati, termine che in India indica il rogo delle vedove, pratica che in questo paese continuò fino al XX secolo, fu sicuramente introdotta in Europa dagli indoeuropei Kurgan. Compare per la prima volta a ovest del Mar Nero, a Suvorvo, sul delta del Danubio. Queste innovazioni radicali nelle pratiche di sepoltura sono inoltre caratteristiche di tutte e tre le invasioni Kurgan. Per esempio, nella cosiddetta cultura dell'anfora globulare, diffusa nell'Europa settentrionale quasi 1000 anni dopo l'arrivo della prima ondata Kurgan, sono assai diffuse le stesse pratiche brutali di sepoltura, che riflettono un tipo simile di organizzazione sociale e culturale. Come scrive Maria Gimbutas, la frequenza di queste sepolture multiple esclude la possibilità che si tratti di decessi coincidenti. Di solito lo scheletro maschile viene sepolto con i suoi doni da un lato della tomba, mentre due o più individui sono raggruppati in quello opposto. Le tombe dell'anfora globulare confermano un predominio maschile. La poliginia è documentata dalla tomba in pietra in Volinia, in cui uno scheletro maschile è affiancato in ordine araldico da due donne e quattro bambini, mentre ai suoi piedi giacciono un giovane uomo e una giovane donna. Queste tombe d'alto rango contengono anche altri oggetti ritenuti importanti dagli uomini di queste classi sovrane, non solo in vita ma anche dopo la morte. I corredi rinvenuti nelle tombe Kurgan, archi e frecce, lance, coltelli, protodaghe da lancio e da taglio, asce di corna e ossa di cavallo, riferisce Maria Gimbutas, rivelano una coscienza guerriera precedentemente sconosciuta nell'antica Europa. In queste tombe sono stati ritrovati anche oggetti simbolici come mandibole, zanne di maiale e cinghiale, scheletri di cane, scapole d'uro o di bovino, che forniscono un'ulteriore testimonianza archeologica del radicale mutamento verificatosi, ideologico oltre che sociale. Queste sepolture mostrano il grande valore sociale che ormai si attribuiva alle tecnologie per il dominio e la distruzione. Contengono anche la prova di una strategia di annientamento e di assorbimento ideologico che incontreremo sempre più, l'appropriazione da parte degli uomini di importanti simboli religiosi che le popolazioni da loro soggiogate in precedenza associavano alla donna e al culto della dea. La tradizione di collocare mandibole di maiale e cinghiale, sepolture di cani e scapole di uro o bovino esclusivamente nelle tombe degli uomini, nota Maria Gimbutas, può essere fatta risalire alle tombe Kurgan 1 e 2 nella steppa del Ponto. L'importanza economica che avevano maiali e cinghiali come fonte di cibo è secondaria rispetto alle implicazioni religiose delle ossa di questi animali, ritrovate solo in associazione con maschi d'alto rango della comunità. I nessi simbolici tra gli uomini e il cinghiale, il maiale e il cane sono un capovolgimento del significato religioso che questi animali avevano nell'antica Europa, dove il maiale era il compagno sacro della dea della rigenerazione. L'interruzione della civiltà. Dal meridione all'occidente, il panorama archeologico dell'antica Europa è ora traumaticamente modificato. Vennero troncate tradizioni millenarie, scrive Maria Gimbutas. Città e villaggi furono disintegrati, scomparve la ceramica splendidamente dipinta e con essa templi e affreschi, sculture, simboli e forme di scrittura. E nello stesso tempo fa la sua comparsa una nuova macchina da guerra vivente, il cavaliere armato, che a quel tempo deve aver avuto lo stesso impatto che al giorno d'oggi possono avere su dei primitivi un carro armato o un aeroplano. E sulla scia delle devastazioni Kurgan troviamo le loro tipiche tombe di capi guerrieri, con i loro sacrifici umani di donne e bambini e mucchi di armi che circondano i capi defunti. Lo storico della preistoria europea, Gordon Child, pur scrivendo prima degli scavi degli anni 60 e 70 e prima che Maria Gimbutas organizzasse i dati vecchi e nuovi usando le più aggiornate tecniche di datazione con radiocarbonio e la dendrocronologia, descrive lo stesso modello generale. Child definisce la cultura degli antichi europei pacifica e democratica, senza indizi di capi che accentrassero le ricchezze delle comunità. Ma poi egli nota come questa situazione gradualmente si modificò con l'avvento della guerra e in particolare delle armi in metallo. Come Maria Gimbutas, Child osserva che insieme alle armi appaiono negli scavi tombe di capi e abitazioni, che evidenziano chiaramente una stratificazione sociale, con la sovranità di un despota che diventa la norma. Gli insediamenti venivano spesso eretti sulla sommità delle colline, scrive Child, sia qui che nelle valli essi ora sono frequentemente fortificati. Inoltre, egli sottolinea anche che quando la competizione per il territorio assunse un carattere bellicoso e si misero a punto per la guerra armi come le asce da battaglia, non solo l'organizzazione sociale, ma anche quella ideologica della società europea subì una profonda alterazione. Più precisamente, la conseguente supremazia, quando la guerra divenne la norma, la conseguente supremazia dei maschi della comunità può essere stata la causa della scomparsa delle statuette femminili. Lo studioso rileva come queste statuette femminili, così numerose nei livelli più antichi, ora non compaiono più e quindi conclude: la vecchia ideologia era cambiata. Ciò può riflettere il passaggio dell'organizzazione della società da matrilineare a patrilineare. Maria Gimbutas è ancora più specifica, basandosi sullo studio sistematico delle cronologie dell'antica Europa, sulle proprie ricerche e su quelle di altri archeologi, e la descrive minuziosamente come, in seguito ad ogni nuova ondata di invasioni, non si verifichi soltanto una devastazione fisica, ma anche ciò che gli storici definiscono un impoverimento culturale. Già dopo l'ondata numero uno, la distruzione è così massiccia che sopravvivono solo delle sacche di insediamenti antichi europei, per esempio il complesso di Cotofeni nella valle Oltenia del Danubio, la Muntenia occidentale e nord-occidentale, il sud di Banat e la Transilvania. Ma anche qui ci sono tracce di mutamenti significativi, in particolar modo la comparsa di meccanismi di difesa come fossati e bastioni. Secondo Maria Gimbutas, per la maggioranza degli insediamenti antichi europei, come quello dei coltivatori Caranovo del basso bacino del Danubio, le invasioni Kurgan furono catastrofiche. C'è una massiccia distruzione materiale di case, di templi, di opere d'arte, manufatti splendidamente lavorati, che non avevano valore né significato per gli invasori barbari. Una quantità enorme di persone venne massacrata, fatta schiava o messa in fuga. Come risultato, si avviarono reazioni a catena di mutamenti di popolazione. In questo periodo iniziano a crearsi quelle che Maria Gimbutas chiama culture ibride. Queste culture erano basate sulla sottomissione dei rimanenti gruppi di antichi europei e sulla loro rapida assimilazione nell'economia pastorizia e nelle società stratificate legate agnaticamente dei Kurgan, ossia patrilineari. Ma queste nuove culture ibride sono di gran lunga meno avanzate tecnologicamente e culturalmente rispetto a quelle che rimpiazzano. L'economia si basa ora principalmente sull'allevamento del bestiame e anche se si notano ancora alcune delle tecniche antiche europee, il vasellame è ora di qualità inferiore, straordinariamente uniforme, banale. Per esempio negli insediamenti di Cernavoda, che compaiono in Romania dopo l'ondata Kurgan numero 2, non c'è traccia di ceramica dipinta né dei disegni simbolici antichi europei. Nell'Ungheria orientale, nella Transilvania occidentale, il modello è simile. Le dimensioni minori delle comunità, che non superano i 30 o 40 individui, indicano un sistema sociale ristrutturato di piccole unità dedicate alla pastorizia, scrive Maria Gimbutas. Cominciano ad apparire ovunque le fortificazioni e gradualmente le acropoli o i forti su collina sostituiscono i vecchi insediamenti privi di mura. Dunque, come evidenziano gli scavi archeologici, il panorama preistorico dell'antica Europa si è trasformato. Dopo ogni invasione si trovano tracce sempre più numerose di distruzione fisica e di regresso culturale e anche il corso della storia culturale è profondamente alterato. Lentamente, mentre gli antichi europei cercano di proteggersi dai loro invasori, per lo più con scarsi risultati, iniziano a emergere nuove definizioni di ciò che è normale per le due società e ideologie. Assistiamo ovunque a un mutamento delle priorità sociali che è come una freccia scagliata nel tempo per trafiggere la nostra era con la sua punta nucleare. Il passaggio verso tecnologie di distruzione sempre più efficaci. Esso va di pari passo con una sostanziale trasformazione ideologica. Il potere di dominare e distruggere mediante la spada affilata soppianta gradualmente l'idea di potere come capacità di sostenere e alimentare la vita. Le conquiste armate non si limitarono infatti a troncare l'evoluzione delle prime società di tipo mutuale. Quelle che non furono semplicemente spazzate via vennero radicalmente trasformate. A questo punto, gli uomini con il maggior potere di distruzione, i più forti fisicamente, i più sensibili, i più insensibili, i più brutali, arrivarono ovunque al vertice, poiché dappertutto la struttura sociale si fece più gerarchica e autoritaria. Le donne, che come gruppo sono fisicamente più piccole e deboli rispetto all'uomo e che si identificano principalmente con la vecchia idea di potere simboleggiata dal calice che sostiene dalla vita, sono adesso gradualmente ridotte alla condizione che da qui in poi rimarrà immutata. Tecnologie di produzione e riproduzione saranno controllate dall'uomo. Nello stesso tempo, la stessa dea si trasforma progressivamente in una semplice moglie o consorte di divinità maschili che adesso hanno la supremazia con i loro nuovi simboli di potere, armi distruttive o folgori. Insomma, tramite un processo graduale di trasformazione sociale e ideologica, che esamineremo più dettagliatamente nei capitoli successivi, la storia della civiltà, dello sviluppo delle tecnologie sociali e materiali più avanzate entra ormai nel familiare e sanguinoso periodo che va dai Sumeri a noi, la storia della violenza e della dominazione.